bianco dice che noi siamo forti, noi siamo pronti per attaccare. Grande capo bianco vuole carne da cannone. Siamo forti.